io se arrivo con l'antennino, con l'antenna mia, già vabbè, antennone, non antennino. No, sta arrivando magnificamente bene, non c'è problema già. Gaba gaba. Lucrezia. Bene, bene, bene, bene. Ciao, vediamo. Io quando mi ho partito, vero? Boh, Claudio ha mollato. Uia. Aspetta un secondo, sta ripetendo troppo. 1, 2, 3, prova. Ola, ola, ola, ola. Così va bene, Luca, cambio. Cambio. Allora sei 9.50, indesse, benzino. Sono la strada che porta le corna, cioè quella che scende giù però, dai, che porta verso Via Moles. Quella nuova, dai, che hanno fatto per andare al monte. A 9.60, sì. KK. Già va bene, cambio. Se metto il lineare qua, guai. L'antenna fa tutto, hai visto? L'antenna fa tutto, poi non ti avevi lineare in macchina e antennine da 20 centimetri. Ma infatti. Cioè va bene anche la mini turbo, va bene anche quella, ma dove ci sono palazzi per disegnare, invece con questa no. Quello, allora, perché vuole lunga. Lo sai cos'è, che era con l'antenna lunga da paesani tutti, ti si girano tutti a guardare, è quello che ti dà fastidio. Ma a me non me la futti nulla. Perché non c'è più nessuno in giro, ma ormai se la mette anche Claudio. Detto, se la fa con una canna da pesca, se la mette centro cappotta. Così è Claudio. Io già l'avevo fatta per la macchina piccolina che rendeva un bel. E rendeva, Già avevo messo la carica di un'antenna, lo stilo fatto a misura, grosso, casa si attaccava anche 100 watt, andava benissimo. Ma è lo stilo già, è lo stilo molto importante nelle antenne, molto, molto importante. Adesso io ho visto quella che costruisce, come si chiama quello che fa le antenne, adesso non mi viene, scoiattolo. Quello lì ha fatto vedere, solo con la bobina riceve tranquillamente l'antenna. Sì, lo so. Ma molti non sono tanto stati contenti, parecchi. Lo so, l'ho sentito anche io che molti non sono stati contenti, che sono meglio le turbo 2001, 2005, tutte quelle lì della serie che ho preso io. Perché lui giustamente deve, secondo me, quando le fa, deve avere anche una turbo 2001, ok? Per metterle a confronto, allora sì che può dire la mia vale di più, la mia vale di meno, perché così come fa, capito? Giustamente c'è lavoro dietro, perché lo so anch'io che c'è lavoro dietro, però poi la devi pur sempre far vedere che la tua vale più o meno dell'altra, poi, per venderle. Gaba gaba. Vabbè, dai, io devo fare altre due, ma non a Giugana oggi. Allora ci sono una gara, stavo restaurando le MC50. Gaba gaba. No, diciamo che lui ha fatto questa antenna, la fa pagare anche tanto per quello che vale. È come un po' come la Game Master, la fa pagare troppo, perché poi a resa dei conti non funge come dovrebbe. Quelle lì sta facendo, sono un po' che non lo vedo su Facebook. No, c'era anche l'altro giorno, le ha messe quello che parla. Adesso vediamo, apriamo, vediamo cosa si può fare. Anche le Game Master sta facendo? No, Game Master no, quelle lì sempre ha messo. Ho capito. Lavoro c'è dietro già, perché le bobine sono fatte dal pieno, capito? Anch'io c'ho il tornio e sono fatte dal pieno, bottone pieno o alluminio anche, dipende dalla qualità che uno vuole fare. Lui le fa in rame dorato. I materiali costano, purtroppo, i materiali costano, il lavoro dietro c'è un bel, soprattutto per un artigiano, per la fabbrica no, perché una fabbrica ha tutto CNC e la sera te ne sforna in ogni lì, cosa che tu ci stai 2 giorni a fare una bobina, loro te la fanno in pochi secondi per dire. E quello è sì che un artigiano giustamente deve far pagare di più. Sì, ma se uno le paga di più deve vedere anche la resa a fin dei conti, no? Se poi vede che la paga di più e non va bene, alla fine non gli bidà di più. Beh, deve anche, infatti quello che ti ho detto io prima, cosa devi fare? Metti una turbo 2001, visto che quando fare in commercio bene o male in giro è la... è una delle migliori o la migliore, questo non lo so perché non ne seguo di antenne di macchina, così che puoi valutare, e la gente che vede appunto che quel materiale che fa lui è più, ha più ricezione, ha qualche punto, un punto in più di trasmissione, la gente acquista da lui, spende qualcosina in più, però ha una cosa che rende di più, certo. Capagaba, ma lo sai che non mi ero reso conto che ora era? Oia, che è l'una e mezzo io. Bobo, l'una e venti. Ehi, Claudio, sei drummi dragadria, Claudio, deve essere che ha già mangiato, io non ho ancora mangiato, devo fare da mangiare a me a Rugani Bui. A Catano è andato, sì. No, sono salito solo sino all'istituto zooprofilattico lì a Serra Secca e poi sono sceso. Allora non ne mangiamo seppie. C'è quella canna già montata col piombino e cosa per il pesce fitto per prendere le seppie e anche qualche calamaro, se c'è. Adesso per dire la tenne dritta dritta, come scende il vento, sia dritta. Fatto farli quel lavoro lì che vedrai che ti dura. Ho già non lasciare con la resina scoperta così. Ma che tu venivo di vulcanizzare 50 rotoli? Ma cosa, un rotolo ti basta. Considera che lo devi tirare anche. Cioè un paio di rotoli mettine, capito? Una volta lo fai intanto ogni anno, non è che lo fai ogni anno. Quello sì, e adesso sono sotto casa. Come sta arrivando? Bene? 9,30 oscillante a 9,40. Certo, vulcanizzante mi sembra da 4 cm o 5 addirittura. Capito? E poi si indurisce quello lì, capito? Lo riporta poi si indurisce. E allora. Come abbiamo visto quella di Torre è ancora su. E Cuzzurabbi mica io da qua la vedo, mi inibita Cuzzurabbi. Oh yeah. Io non l'ho vista mai, E considera che il vento non ne ha fatto, quello che ha rotto la tua non era neanche vento, ho già, però come ben visto purtroppo, vabbè, magari era un difetto come hai detto tu che è stata montata male, ma che razza di ingegneri ci avevi non lo so, io non lo so. Erano raffiche di vento, capito? Era quello che aveva molto l'antenna, perché stava lì dopo di colpo, boom, scendeva di colpo, come quando ti mangia un'ora da 5 kg. Sì, ma infatti quello, non quando la piega, ma quando ritorna indietro e poi gli dà l'altra frustata, capito? Che la rompe. Guarda, le prove che ho fatto io, i prototipi che ho fatto io, tu non ne hai un'idea fino a che non sono arrivato a questo risultato già. E io sono in alto, io l'alzavo a 6 metri di alto a zio, proprio per farla prendere più vento possibile. Cappa. Tra un elemento e l'altro ne hai messo? Io metto doppia struttura, capito? Doppia struttura e poi che si può mettere anche dei pezzi di canna da pesca tra un elemento e l'altro di 15 cm, capito? 15 cm e poi vulcanizzi il tutto. E naturalmente io preferisco anche riempirli di schiuma poliuretanica per isolarle bene, capito? Ma quello tu lo fai sul posto oppure non lo puoi fare prima? Se la devo riempire di schiuma la devo fare sul posto, se no posso spedire le due strutture e poi chi vuole se la piazza, doppia struttura, una da 5 e una da 8, una dentro l'altra, siccome gli elementi non si trovano uno con l'altro, cosa succede? Che quello di dentro è come fare un muro, capito? Mezzo blocchetto, un blocchetto intero, e così si trova una canna da pesca all'interno con l'altra, alla stessa maniera, ecco perché non le tronca. E un riporto già, là. Ho capito com'è. Se no il vento la tronca, una canna da pesca solo, la tronca. Pensa che chi ha comprato anche la DxWire verrà troncata. E lo spessore, se non mettono spessore, è inutile fare una cosa lunga 8 metri, o come la Game Master, e non fai spessore, è inutile, e la Game Master non ha neanche una conicità. E vabbè, ma poi la bobina all'interno servono sempre, anche se si tronca si può sempre rifare, no? Sì, quello sì, e molti hanno preso l'antenna mia, e comprata l'antenna da me e usata la struttura della Game Master, ti puoi immaginare. E sopra tu come la blocchi, il cavo come lo blocchi? Il cavo, una volta che io faccio uscire 5-6 cm, si mette una fascetta e basta, una fascetta da elettricista e basta, e poi si vulcanizza il tutto. Ma lo blocchi così, invece la mia c'ha una chiave a brugola, si blocca con un mossettino a brugola. Ehi, lo so già, lo so com'è fatta, perché ne ho una qua io che sto vendendo, appunto, di Game Master. Sì, c'è la boccola che entra giusta giusta nell'ultimo pezzo e poi stringi, tiri fuori il filo e stringi. E io anche lì su l'ho vulcanizzata, capito? Io l'ho vulcanizzata bene, nelle giunture, senza problemi di spreco di vulcanizzante. L'ho tutta ben vulcanizzata da molto più giù sino ad arrivare sopra, capito? Però ho vulcanizzato solo la zona dove era tra un elemento e l'altro, dai, dove c'era l'incasso tra un elemento e l'altro, poi il resto no. Invece devi vulcanizzare tutta. Se trovi del vulcanizzante di colore bianco, magari, giusto per stare in tema, ancora meglio. Però non so se c'è blu. No, non ne ho mai visto bianco, sempre nero l'ho visto. Vabbè Luca, là, io ti lascio che già stato, se no cucino Luca oggi non mangio. D'accordo, ci sentiamo stasera al limite, dai. Qua chiudo tutto e basta. Nel senso tutto. E smonto, ogni volta mi tocca smontare tutto, è una paranoia. Se no te ne avevo avuti mia antenna. Sì, me l'hanno già fregato una, me l'hanno già rubato una volta, di amore ci me l'hanno rubato. Me l'ho tagliato il filo e mi hanno rubato l'antenna. Oh, io sono qua io, dai, ci sentiamo dopo, devo andare a mangiare. Ehi, Acla, dai, buona carica anche a te Luca, dai, ci sentiamo. Ciao Claudio, da qua, da sotto casa, come arrivo? Prova. Qua sono nei parcheggi del cortile, sono travolto da palazzo. Trepitoso già, 9 più 10 gradi o super 5. Andava, dai, già va bene. Quasi come da casa ti arrivo. Ma giù arrivi più forte alla macchina che da casa. Da. Staremo a vedere. Anda bene. Ciao, a stasera, cambio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Lu, ci sentiamo stasera. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao.